Con Antonio Termenini, direttore della quindicesima edizione dell'Asian Film Festival a Roma, all'Apollo 11, dal 27 al 30 settembre. Antonio, ben trovato. Bentrovati a voi e piacere di sentirvi. Raccontaci. Dunque, c'è questa bella possibilità di riportare una parte di Asian Film Festival a Roma, cosa che naturalmente ci fa molto piacere perché l'ultimo anno in cui siamo stati presenti a Roma è stata l'estate del 2010, luglio del 2010, quindi portare qui una parte importante dell'ultima edizione. La quindicesima che si è svolta a Bologna nello scorso maggio, con tra l'altro due film inediti nuovi che sono Over the Fence e Mizuno Universe di Nobuhiro Yamashita, è per noi motivo di soddisfazione. Quindi, prego, prego. Ecco, hai ricordato gli ultimi tempi del festival, ricordiamo anche come nasce questo festival. Nasce nel 2002 come Taiwan Film Festival, come un omaggio al cinema taiwanese, che è probabilmente quello al quale sono ancora più legato così. Poi diventa nel 2003 Asian Film Festival, quindi si allarga a tutta l'area geografica dell'estremo oriente, del sud-est asiatico, quindi 13 paesi sostanzialmente. E fino al 2010 appunto si svolge a Roma proiettando quasi 300 film con grandi ospiti da Wu Xiuxian, Fanny Liang, Chen Kai, Brian Mendoza, Jia Zhangke, insomma tanti ospiti importanti. Poi per tanti motivi il festival prosegue non più a Roma, ma in Emilia-Romagna, prima a Reggio Emilia e poi a Bologna, alla Cineteca di Bologna. Arriviamo alla 4 giorni romana, quante opere? 8 film nuovi, quindi produzione 2017-2018, cercando di dare uno sguardo il più esaustivo possibile, quindi film dalle Filippine, di The King, di Sonny Calvento, che anche ha appena vinto il Dallas Film Festival e che insomma, sta avendo grande successo un po' in tutto il mondo, è un'opera prima, film taiwanese, appunto il film del regista di Linda, Linda, Linda, Nobuhiro Yamashita, che sarà presente a Roma a commentare, introdurre i suoi film sabato alle 19 e domenica alle 21, film cinesi, film taiwanesi, malesi, il capolavoro Akeras, che ha vinto il festival appunto a Bologna e che ha già vinto anche il Festival di Tokyo, quindi per cercare di dare uno sguardo più comprensivo possibile di queste cinematografie. Come saranno gli orari delle giornate? Gli orari, appunto, ad eccezione della giornata di oggi, in cui i film, uno in proiezione, è stato alle 17, l'altro inizia alle 19, sostanzialmente appunto avranno da domani orari 19:21, sempre qui a Apollo 11, e ripeto, sperando che questo sia soltanto un inizio per riportare ancora tanto cinema dell'estremo oriente a Roma e negli anni a seguire. Rispetto al panorama asiatico, quali sono le cinematografie più vivaci? Direi che negli ultimi 2 o 3 anni, a parte ovviamente, giapponese che non ha mai smesso insomma di avere grandi registi e lo testimonio generalmente la Palma d'Oro vinta da Kore-eda al primo Festival di Cannes con un film che è in programmazione in queste settimane in tutta Italia, un affare di famiglia. Secondo me in questi ultimi 2 o 3 anni c'è un grande fermento, sicuramente in Cina, nel senso che si vedono tanti film tra virgolette indipendenti cinesi che fino a 10 anni fa era quasi impossibile vedere. Molto la Malesia anche perché ha con capacità di coproduzione con altri paesi. Poi altri proseguono come Corea, la Corea del Sud, naturalmente, forse altri sono in leggera flessione, non diciamo quali, ma visto che non li abbiamo nominati, vengono un po' di conseguenza, insomma, ecco. Se nelle sale italiane continuano ad arrivarne molto pochi. Purtroppo sempre di meno rispetto a quando appunto il festival è iniziato, rispetto ai primi anni 2000, anche i grandi autori come Kitano, come Kim Ki-duk, come Wong Kar-wai, che in realtà più per il motivo che fa un film ogni 6-7 anni, comunque sì, sempre di meno. E questo, beh, discorso molto molto lungo, sappiamo che c'è una grave crisi peraltro soltanto italiana che riguarda le sale cinematografiche più complessive, insomma, quindi non il cinema asiatico ma il cinema in se stesso, proprio a partire da quello italiano, quindi chiaramente per i distributori rispetto a 15 anni fa diventa ancora più rischioso acquistare i diritti e portare in sala dei film da Hong Kong, Giappone, Cina, a meno che appunto come nel caso del film di Koreeda non vincano un grande premio in un grande festival, e quindi in quel caso diciamo che il rischio è ridotto. Antonio, in chiusura ci dai tutti i riferimenti web per seguire la programmazione? Sì, allora sicuramente le pagine Facebook nostra di Asian Film Festival è quella di Apollo 11 e il sito internet di Asian Film Festival che è www.asianfilmfestival.info, dove ci sono le proiezioni. Sulla pagina Facebook ci sono anche i trailer, ci sono delle belle immagini. Quindicesima edizione Asian Film Festival a Roma, Apollo 11, dal 27 al 30 settembre. Un saluto e un ringraziamento al direttore Antonio Termenini. Antonio, un abbraccio, un in bocca al lupo e a presto. Grazie, grazie a voi, grazie.